In this third dialogue, you'll hear a new word. Settimana. Week. Una settimana. A week or one week. Due settimane. 2 weeks. Listen to each again and repeat. Una settimana. Due settimane. And now the third and final dialogue. Numero 3. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, ho una prenotazione a nome Carly. Carly? Esatto, Carly si scrive C-A-R-L-I. Ah, sì, signor Carly. Una camera doppia con doccia per... No, non è una doppia. No? No, ho prenotato una camera singola. Ah, mi scusi. Dunque, una camera singola per 3 settimane. 3 settimane? No. No? No, per niente. Ho prenotato una singola per 5 notti. 5 notti? Sì, 5 notti. Mi scusi, non capisco. Lei è il signor Carly? Certo, Antonio Carly. Antonio Carly? Sì, signora. Lei non è Luigi Carly? Luigi? No, mi chiamo Antonio. Ah, allora capisco. Carly, Antonio. Una camera singola per 5 notti. Esatto? Esatto. Bene. Mi scusi, signor Carly, e benvenuto.